Pronto? Sono incinta di un bambino. Cosa? Hai sentito bene? Sono incinta di un bambino. E me lo dici così, me lo dici? E come devo dirtelo, scusa? Si dice sono rimasta incinta oppure aspetto un bambino. Sono incinta di un bambino è grammaticalmente scorretto. Ah, allora sono rimasta incinta, ecco, va bene così? Perfetto, perfetto. Sai che non sono un precisino, ma certe volte... cioè, se dici sono incinta di un bambino... sembra che il bambino è il padre di tuo figlio. ma hai capito che intendo? Certo, certo, scusami, scusami. Intendi che sei incinta, intendi, no? È così, può dire anche così. Sono incinta, semplice, semplice. No, sono incinta di un bambino. Sono contenta che hai capito, perché avevo paura, no, che avessi un'altra fuga della realtà, come la volta del ritardo, te lo ricordi? Certo, certo. E invece l'hai presa bene. Benissimo, benissimo, veramente beh, molto bene. Niente fuga dalla realtà. Ma no, ma perché? Perché no? Sono proprio contenta, guarda. Sono davvero contenta. Certo, anch'io. Gianco 2, rispondi. Cosa dici, scusa? No, niente, dai, sono veramente molto contento. Poi ci organizziamo bene, compriamo i pannolini e tutto quanto, ok? Gianco 2, dove siete con gli elicotteri? Ma con chi parli? Ho detto niente, tesoro, dai, poi ti dico. Scusami un attimo, scusami, tesoro. Allora, tu col disco volante puoi metterti a destra? Bene così, allora tutti quelli con le antennine gialle, ecco così, a sinistra, ecco, bravi, bravi. Ma con chi stai parlando? 5 minuti, Torino, dai, 5 minuti. Scusami, Michael, allora quando lo facciamo questo disco? Però niente cose tipo Billie Jean, dove si balla, ok? Pronto! Tesorino, 5 minuti, dai, dammi 5 minuti. Ti prometto che tornerò. Ora i bastioni di Omega mi richiamano con il loro canto. Difenderò la mia stirpe Alfa Gamma, fosse anche l'ultimo grido che esce da questa corazza elettronica ormai stanca, ma ti prometto che tornerò. Mi credi? Ma vaffanculo, tu.